Ebbene sì, quando eravamo in pelose è quasi arrivato alla nostra ora. Naturalmente noi lo sappiamo che voi vi ricordate che cos'è quando eravamo pelose e fra l'altro non essendoci Federica con me quest'oggi perché aveva la febbre, vi dico soltanto che è la storia di donne senza peli sulla lingua. E oggi abbiamo scelto di raccontarvi qualcosa su Fernanda Pivano. She was a new girl in Town. Eh sì, come vi dicevo, per quando eravamo pelose, oggi ci sono soltanto io che sono Samantha e ho scelto comunque di raccontarvi qualcosa su Fernanda Pivano. E Fernanda Pivano nasce a Genova il 18 luglio del 1917 e come tutti ben sappiamo divenne una scrittrice, una giornalista, una traduttrice ed una critica. A 24 anni e in piena seconda guerra mondiale si laurea in lettere con una tesi in letteratura americana su Moby Dick, il capolavoro di Melville. È proprio questo libro la chiave che le apre la porta sul mondo della grande letteratura made in America. Nel 1943 pubblica la prima parziale traduzione dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Il suo mentore è Cesare Pavese. Aveva già avuto Fernanda Pivano aveva avuto la fortuna di avere Cesare Pavese come suo professore al liceo d'Azeglio di Torino. E diciamo che questo è soltanto il primo di una serie di incontri molto importanti che poi la aiutarono nella sua carriera. Tra questi incontri importanti c'è una leggenda che coinvolge l'incontro fra Carla Pivano e Ernest Hemingway. Pare che questi venne in Italia nel 1948, di preciso si recò a Cortina e le spedì una cartolina nella quale c'era scritta «Vorrei conoscerti, perché non vieni a Cortina? Se non vuoi venire a Cortina, verrò io a Torino». Ma non farmici venire. Naturalmente non era uno scherzo, cosa che invece al momento credette Fernanda Pivano, ma era realmente il leggendario Papa che voleva incontrare la ragazza che già nel 1943 era stata arrestata dai nazisti per aver tradotto Addio alle armi. Naturalmente romanzo che fu messo all'indice in Italia dalla censura. Da questo Hemingway, apprezzando il valore e il coraggio di Fernanda Pivano, volle appunto conoscerla non appena gli si offrì l'occasione. Dall'incontro nacque proprio un rapporto di amicizia e di lavoro, tanto che la Pivano sarà sempre la maggior curatrice delle opere dell'autore de Il vecchio e il mare. Allora, la storia è andata così, che io avevo avuto da Einaudi questo contratto per tradurre Addio alle armi. Poi Einaudi era scappato a Roma quando erano arrivate le SS tedesche a Torino, io vivo ancora a Torino. E loro hanno fatto una perquisizione della casa editrice per scoprire delle cose meravigliose che speravano di scoprire per ammazzare un po' di gente. Invece non le hanno scoperte. Non è mica notizie per niente. E hanno trovato il tuo contratto. E quindi sei stata arrestata. Sono stata arrestata. La cosa buffa è che il contratto era stato scritto da una di queste signorine negli uffici che pensano ad altre cose mentre lavorano. Avevano scritto Fernando invece che Fernando. E così hanno preso mio fratello che era disertore e io non sapevo come fare a farlo andare via. Quando sono io naturalmente l'ho sfollata perché avevo avuto la casa distrutta. E quando sono arrivata a vedere che cosa era rimasto, perché ogni giorno era un po' più distrutta, me l'hanno arrestato suo fratello. E allora io mi sono precipitata a questo covo dei nazisti che era l'albergo nazionale a Torino, ho trovato mio fratello un po' insanguinato, l'avevano un po' picchiato. e il mio problema era di farlo uscire, perché lui come disertore non era una bella cosa, e sono riuscita a farlo uscire. E poi hanno cominciato a interrogarmi, ha cominciato alle 8 di mattina e mi hanno lasciato andare a mezzanotte, però vigilata, era una vigilata speciale. E così questa giovane ragazza, che ha già avuto il piacere di conoscere Ernest Hemingway e che ama la letteratura made in USA, compie il suo primo viaggio negli Stati Uniti nel 1956. Al suo ritorno porterà in Italia la poetica, le pagine di letteratura e di vita della Beat Generation, di Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti e poi William Burroughs, la prefazione a Sulla strada di Kerouac. e negli anni successivi traduce anche Allen Ginsberg e Bob Dylan. Il suo approccio alla letteratura non conosce mezzi termini, forse non è il suo mestiere, però il successo piano piano arriva anche per lei. Cresce la diffusione in Italia della letteratura americana del secondo Novecento ed è ormai è lei che si lascia addirittura portare dal suo lavoro, si lascia andare nella traduzione di queste opere e nella possibilità di farle conoscere in Italia. Questo naturalmente la porta verso una grande popolarità e una grande fama, tanto da impersonare la letteratura americana proprio in Italia con la persona di Fernanda Pivano. Il tuo lavoro attuale di romanziera, la tua grande esperienza di saggista, di traduttrice e di esperta di letteratura americana, insomma. Cioè. Ma pesa enormemente, perché naturalmente questo mio lavoro sulla narrativa americana mi ha lasciato delle tracce indelebili, delle tracce profondissime. Ma ogni tanto c'è qualche tua pagina che una volta scritta che ti rimane nelle orecchie, per cui tu pensi, ma forse questo l'ho letto, forse questo è. No, questo no, non però. Non in senso stretto, diciamo, no, in generale. Questo no, perché le cose che racconto sono completamente diverse da quelle che raccontavano i miei amici americani. Però sta il fatto che il modo di raccontare mi è rimasto attaccato alla pelle, perché questo modo sempre basato, come diceva Hemingway, su cose semplici, raccontate in modo semplice, questo modo di non raccontare mai cose che non si sono conosciute di persona. Questo infatti è un gran pregio. Questo ritorna, insomma, no, non me lo sono staccato di dosso. Per la chiarezza dice, del libro, sì, avvincente. Che è poi quello che diceva Gogol, di non raccontare mai cose straordinarie, di non raccontare mai personaggi straordinari, perché la matrice è sempre quella. Senti, rapporto forma-sostanza. Quanto pesa il tuo problema di forma, il tuo rapporto con la scrittura? Ma io cerco sempre di usare un linguaggio estremamente parlato, un linguaggio molto, molto reale, molto vero. Non faccio mai della letteratura, come si dice, non scrivo mai delle pagine seriose, scrivo sempre delle cose il più possibile soffici, il più possibile leggere. Senti, non c'entra, ma in fondo c'entra. Hemingway oggi cosa penserebbe della letteratura americana contemporanea? Non sarebbe contento, perché mi ricordo che a lui piacevano appunto queste cose estremamente tese, estremamente lisce. E la letteratura americana a un certo punto è diventata apocalittica, con questi romanzi tipo Heller, tipo Pynchon, questi romanzi dove ci sono delle storie postmoderne. La narrativa postmoderna, per esempio, non gli sarebbe piaciuta sicuramente. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go go go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go go go. Does he wash up? Never wash up, does he clean up? No, he never cleans. E sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, quando eravamo pelose, oggi soltanto con Samantha, sono le 17.35 e vi raccontavamo qualcosa di Fernanda Pivano. E vi parlavamo del fatto che naturalmente lei era l'interprete principale delle traduzioni della letteratura americana e l'ha portata in Italia e ce l'ha fatta conoscere. E naturalmente mentre comincia a frequentare queste persone, ad incontrarle, a parlarci, inizia a raccogliere tutti i loro ricordi, tutte le loro occasioni, tanto da poterne scrivere dei libri. Il primo del 1976, che è I mostri degli anni 20, e poi seguono l'intervista al Charles Bukowski, Quello che mi importa è grattarmi sotto le ascelle, e una fondamentale biografia di Hemingway. Poi pubblicherà anche i suoi diari, pubblicati da Bompiani, che sono degli aneddoti e degli episodi tratti da una vita straordinaria quale la sua. Naturalmente lei ha avuto il piacere di conoscere tutti questi grandi romanzieri, ha avuto il piacere di avere delle esperienze con loro, di condividere del tempo, di condividere delle idee, soprattutto perché era lei quella che poi li traduceva e li portava in Italia e ce li faceva e ci ha dato la possibilità di conoscerli. E fino agli ultimi anni la Pivano continua a promuovere e a riconoscere il talento anche dei nuovi narratori d'America, da Ellis a Palahniuk a Foster Wallace. Since I came around, been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong in Jesus Christ. There's something, something about the chase. 6 whole years. I'm a New York woman born to run you down. So I'm a lipstick all over your face. Something, something about just knowing when it's right. So put your dreams up in Nebraska. From Nebraska, Nebraska, I love you. You and I. You and I. Baby, I'd rather die without you and I. You and I. You and I. Nebraska, I'd rather die without you and I. It's been a long time since I came around. But I'm back in town. This time I'm not leaving without you. E proprio lei dei suoi amici diceva: io non bevo, non fumo, non prendo droghe e sono sempre rimasta fedele a mio marito, per tutta la vita. Questo era quello che diceva Fernanda, anche se poi qualche rimpianto dice di averlo avuto anche lei, soprattutto dopo la separazione dal marito avvenuta dopo 37 anni di matrimonio. Le dispiaceva, raccontava un po' per scherzo, aver rifiutato le avance dei tanti grandi che aveva avuto occasione di incontrare. Tutti quei mostri sacri della lettura, lei li chiamava con il candore di una ragazzina i miei amici. Così questa donna che non aveva mai assaggiato l'alcol, né provato alcuna droga e neppure praticato una vita sessuale promiscua, si trovava a frequentare dei personaggi che bevevano a dismisura, sperimentavano ogni tipo di stupefacente e che spesso avevano rapporti con chiunque capitava. Primi tra tutti i beat, ribelli e sognatori, ai quali Fernanda lega il suo nome. In loro aveva visto delle anime affini, al di là delle differenze esteriori alle quali si dava tanta importanza in una società bigotta e moralista. Lei era riuscita a sorpassare questo pregiudizio e aveva riconosciuto in loro quei poeti e quegli scrittori che il mondo accademico invece avrebbe riverito soltanto 30 o più anni dopo. Ma sai, io ero una signora vittoriana. Cioè, ero stata allevata in una famiglia super vittoriana che per 4 secoli era stata una famiglia così. Clamorosa, sì. E allora non potevo neanche immaginare di fare quello che facevano loro. Però, al di là dell'abitudine di usare la forchetta e il coltello, la libertà ci credevo anch'io. In prigione andavo anch'io per la libertà. In America mi hanno detto, è stato molto divertente. A un certo punto... Io ero in Colorado all'università buddista di Naropa. Allora c'era una ditta lì in Colorado che faceva i detonatori nucleari. Invece di fare spazzolini da denti faceva detonatori nucleari. E naturalmente noi eravamo tutti a furor rosso per questa storia dei detonatori nucleari, perché facevamo già la campagna contro la bomba atomica e tutte queste cose. E allora abbiamo combinato... sotto la guida di Helper, che era il capo della contestazione in America, e con Gilbert, che era il suo factotum, insomma. E siamo andati e c'erano 15 ragazzi vestiti da indiani, sdraiati per terra con dei fiori in mano, che facevano finta di essere morti per la detonazione nucleare. Sì. E noi, quando dico noi, dico Gilbert, Orlovsky, Gregory Corso, noi insomma, eravamo sdraiati, eravamo seduti sulle tu rotaie. Non eri vestita da indiana però? No, quattro eravamo vestiti da occidentali, sì. E a un certo punto, siccome c'erano nei cartelli i nostri spazi che non si poteva passare, e noi avevamo passato, sì. È arrivata la polizia e ci ha detto, non adesso... Io non so l'inglese, gli ho risposto, I cannot speak English. Allora mi hanno preso per le mani e per i piedi, come usava Lisa per arrestare, mi hanno non buttato, mi hanno appoggiato su un carro che stava andando verso la prigione. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shake it up, tangled up. You could be quaking up, making up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. If all is tragedy, don't get me tangled up. I can't separate your sins. To me, you're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. To both, oh, never mind. And get me waking up. Come appunto sentivamo dalle stesse parole di Fernanda Pivano, che abbiamo avuto il piacere di prendere da alcune interviste per potervele fare ascoltare, nonostante lei venisse da tutt'altra educazione, da tutt'altro pensiero, fu veramente molto grande in questo, perché riuscì a capire il talento e l'importanza di quegli artisti con largo anticipo su tutti quanti. Li capì anche grazie alla sua capacità, cioè alla sua voglia di essere come loro, alla sua voglia di lottare, però ne comprese gli ideali, la rivoluzione che portavano avanti, e questo fece di diede la possibilità di poter creare veramente un rapporto di amicizia. Quindi non, cioè, partecipò al loro movimento, sognò con loro di riuscire a cambiare il mondo. Naturalmente potevano esserci delle differenze date dal fatto che comunque sia il loro modo di vivere era diametralmente opposto, però questo non impedì il fatto di potersi sostenere, di potersi aiutare, e la possibilità per Fernanda di vivere con loro e dare a loro la possibilità di essere conosciuti ed apprezzati anche in Italia. Naturalmente c'era qualche incomprensione, tanto che non sappiamo se è una leggenda o no, ma ci piaceva e quindi ve la diciamo. Pare che Hemingway, quando scoprì che Fernanda Pivano era astemia, chiamandola affettuosamente sorella, la rimproverò dicendole: questo davvero non avresti dovuto farmelo. E questo ci fa capire il loro livello di amicizia, e ci fa capire il fatto che nonostante Fernanda non abbia mai iniziato a bere, in compenso non ha mai smesso di far conoscere questi autori e non ha mai smesso di scoprirne di nuovi e di regalarci i loro racconti. Maybe like is a way. But what about the others who aren't here today? We struggle with the time, falling with our heart. But they, in my mind, no point in killing time. You better stop what you're doing before you do it all wrong again. You better stop what you're doing before you do it all wrong again. Ooh. I've tried to put it from my mind, to bury all the troubles that I left behind. But still I can't explain the words I just can't find. And I can't understand it. Ain't nothing gonna change my mind. You better stop what you're doing before you do it all wrong again. We know it. E siamo, sono ancora io, non sono insieme a nessuno, quindi non siamo. E per oggi vi abbiamo parlato di Fernanda Pivano, la nostra puntata alle 17.56 giunge al termine. Spero che vi abbia fatto piacere ascoltare soltanto me. Grazie a tutte.